Il punto di Stefano Folli. Si può pensare quello che si vuole delle vicende Monte dei Paschi, Finmeccanica, del caso Formigoni o della tremenda esperienza che ha coinvolto il generale Pollari, ex capo dei servizi. Sta di fatto che tutti i nodi giudiziari o processuali sono arrivati al pettine a pochi giorni dalle elezioni. E c'è chi vede in questo la prova di un'ingerenza voluta della magistratura ai vari livelli nella dinamica politica del paese, ma è molto probabile che la verità sia insieme più banale e più sconfortante. Si parla solo dei processi perché in questi anni il sistema politico è lentamente sprofondato, quasi imploso, nei propri errori, limiti, nella propria indifferenza, fino a questo esito sconsolante che è anche un campanello d'allarme a dir poco su quello che potrà essere il prossimo Parlamento. La campagna elettorale per Beppe Grillo la sta facendo la vecchia politica.